English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per questa puntata Giulia ha scovato un podcast molto interessante. È il podcast dei libri del Guardian, quindi The Guardian Books Podcast. In particolare, in questa uscita, Giulia, ci parlano del futuro del libro. Dobbiamo dirlo, la giornalista ha partecipato a un forum dell'UNESCO che si è tenuto poco tempo fa a Monza. Ma sentiamo cosa ha raccontato questa giornalista proprio all'inizio del podcast. Hello and welcome to this week's podcast. You may have noticed that I was away last week, but no, I wasn't sunbathing in a London park. I was in Italy as a moderator of the 2011 Book Tomorrow conference. Organized by UNESCO, it was a talking shop for several hundred delegates from all over the world. Academics, librarians, writers and publishers descended on the grand 19th century pile, the Villa Reale, just outside Milan, for 3 days in an attempt to work out what the future of the written word might be. You can understand why. Eccola qui, questa giornalista si chiama Claire Armitstead e ha evidentemente un appuntamento settimanale con i suoi ascoltatori, perché si tratta di un podcast, e dice: vi sarete accorti che, come si dice dalle mie parti, ho bigiato la settimana scorsa, ho marinato, si dice in tanti modi in Italia, non c'ero. You may have noticed, you may naturalmente è, lo sappiamo, quel modo di costruire un condizionale gentile, quindi probabilmente avrete notato che I was away last week, che settimana scorsa non c'ero. E è un podcast probabilmente molto seguito, anche perché il Guardian, lo ricordiamo, questo sito stupendo che da un sacco di anni vince il premio come miglior sito, e probabilmente l'edizione di carta, ahimè, ironia della sorte, visto che stiamo parlando del future of the written word, l'edizione di carta sparirà e resterà soltanto questa corposissima edizione online. Quindi, oltre alla Book Tomorrow Conference, alla conferenza sul libro di domani, dovrebbe esserci anche la Newspapers Tomorrow Conference. Ma intanto lei spiega: no, non stavo prendendo il sole in un parco di Londra, una cosa molto esotica, però stiamo parlando di Gran Bretagna, quindi questo è sunbathe, una bellissima espressione che vuol dire proprio fare il bagno nel sole, letteralmente. Noi diciamo prendere il sole. In Italia, vicino a Milano, just outside Milan, cosa succedeva? Divertente anche questo fatto che per lei Monza è appunto just outside Milan. Per un milanese in realtà Monza è Monza ed è un bel po' outside Milan, non proprio just outside Milan. In questa grand nel senso grandiosa, non grande, che sarebbe semplicemente big, Villa Reale, e vabbè, la chiama Real perché la E finale non le piace, non le sembra di poterla pronunciare. E quello che appunto hanno cercato di fare è workout è un phrasal verb che vuol dire anche fare esercizio fisico. Un workout è una sessione, per esempio, in palestra, ma to work out vuol dire anche trovare una soluzione, quindi work out what the future of the written word might be, quindi trovare una soluzione e cercare di capire quale sarà il futuro della parola scritta. You can understand why, potrete capire perché si è dibattuto di tutto questo, ma sentiamo come prosegue Claire Armitstead. Francesco Bandarin is UNESCO's Assistant Director General for Culture. He explains why they decided to stage this conference. We saw that the discussion on the future of the book is not done in the proper format. It's normally very antagonistic. It's a collision of interests. So some people become very defensive, like, for instance, big libraries or governments, so they don't like the power of Google, of Amazon, and so on. And we didn't think that this was the proper way to deal with such an important thing. So this is essentially conceived as a forum in which all the actors that have a role in this transformation of the book are called upon and are put in a forum so they can discuss, express their views, perhaps find new avenues. You know, the book is the most important cultural object of humanity. Posso confessare che mi piace un sacco come parla questo signor Francesco Bandarin, che ha questo accento splendido e questo bel modo di parlare in inglese. Ma andiamo per ordine, dopo aver confessato questa mia debolezza. Chi è? Ce l'ha spiegato la giornalista. Quindi è un Assistant Director General dell'UNESCO. L'UNESCO è l'Agenzia per la Cultura delle Nazioni Unite, quindi un organo veramente mondiale, e proprio a livello globale hanno deciso to stage this conference conference. Stage sappiamo che è anche il palcoscenico, ma quindi to stage a conference vuol dire montare una conferenza, cioè metterla in piedi, proprio facendo, se si usa questo verbo si presume che sia appunto un evento che coinvolge moltissime persone, per questo è complesso come uno spettacolo teatrale. E diciamolo ancora una volta, lo stage non è quello che si fa al lavoro, perché quello è lo stage in francese. Nel mondo anglosassone si dice in tutt'altro modo l'internship, no? E lo stagista è l'intern. Perché è stata organizzata questa conferenza? We started the discussion on the future of the book, quindi to discuss on something, in questo caso the future of the book, was not done in the proper format. Perché era very antagonistic, cioè le posizioni erano sempre troppo distanti, troppo antagoniste, ed era spesso una collision of interest, cioè le persone si mettevano proprio su sponde diverse, sulla difensiva, very defensive, noi in italiano diciamo mettersi sulla difensiva, per esempio, e fa l'esempio delle big libraries, qui è un very very very false friend, la library naturalmente non è la libreria, ma perché quello si dice bookstore, ma è la biblioteca, quindi le biblioteche o i governments che erano sulla difensiva perché si vedono rubare il potere da questi nuovi organismi transnazionali tipo Google, tutto sommato. Eh sì, sono tutti actors, tutti attori, lo diciamo anche noi, che hanno un ruolo nella trasformazione innegabile del libro. Quindi this transformation of a book, e tutti were called upon and put in a form to be called upon. E può essere usato anche in un modo religioso, cioè sentire proprio la chiamata, però usato in questo senso dall'idea appunto che a tutti erano stati investiti di questa importanza. Per quello che è the most important cultural object of humanity. Mi è piaciuto questa sottolineatura, non è casuale. E tra l'altro notate la pronuncia di the quando vuole essere proprio così enfatico per dire il più importante, quindi non the most important, ma è come se si isolasse la parola e quindi la si pronuncia con quella E finale, leggendo quella E finale che in generale non si legge, quindi the most important cultural object of humanity. Ma ascoltiamo un ultimo estratto di questo podcast in realtà lunghissimo, come prosegue Claire Armistead. Francesco Banderin doing a welcome bit of cheerleading there. The forum, as he called it, was short but intense, with a miasma of discussions to choose from, and it wasn't always easy to decide which session to pick, as the Irish commentator Owen Purcell found out. I think I'm going to go to the copyright versus copyleft, which is the first workshop. What does that mean, copyright versus copyleft? I'm not entirely sure, but I'm very interested to find out. I think a sense of kind of a more open copyright or a slightly less restrictive copyright that's not maybe based on the licensing system of fair use and Creative Commons. So what are the alternatives you could go to? Well, actually, funnily enough, the second one is fair use and Creative Commons, and there's a third one on preserving digital memory, which I'm not too convinced by, so I don't... Why are you not going to that? I just don't think it'll work out in the end, because it requires too much collective action and too many sensible decisions for the long term, which I don't think we're very good at making. Un'altra conversazione della nostra Claire Armistead. Sentiamo che questo podcast è molto complesso. A differenza di molti podcast, anche dei giornali italiani, non c'è semplicemente il racconto della giornalista. Lei ha fatto delle vere interviste, insomma, un ottimo prodotto editoriale. E ha salutato un altro commentatore che lei ha incrociato appunto a Monza, alla Villa Reale. Sì, perché dice il forum è stato short but intense, quindi corto, breve, però intenso, e quindi era difficile to decide which session to pick. To pick naturalmente vuol dire scegliere, si può anche dire to pick out se si vuole dare ancora maggiore enfasi, ed è proprio quello che ha scoperto questo giornalista irlandese che lei ha intervistato, Owen Purcell, che dice, mentre lei lo incontra, I'm gonna go, avrebbe potuto dire anche I'm going to go. E lui quale forum ha scelto? Evidentemente intenso, ce n'erano tanti, lui ne ha scelto uno in particolare? Sì, con questo titolo, forse l'avrete visto a volte in rete per indicare appunto questa grande discussione che c'è sempre sul copyright, sui diritti d'autore. Anche in questi ultimi giorni se ne discute tantissimo. Il workshop si intitolava Copyright versus Copyleft. È un po' un gioco di parole, nel senso che non esiste una vera e propria definizione di copyleft. È appunto un modo per dire ciò che non è copyright. Cioè copyright letteralmente è il diritto intellettuale, la proprietà intellettuale su un qualcosa, su un'idea. Lo usiamo, lo estendiamo a qualsiasi cosa, libri, musica, qualsiasi invenzione, insomma. Inevitabile in questo momento cercare una nuova via, forse più aperta, more open copyright. More open, o comunque con un less restrictive, con delle regole un pochino meno restrittive, ma... ma sì, effettivamente c'è qualcosa che non lo convince, soprattutto in un altro forum in cui penso di aver capito ha deciso di non andare. Questo giornalista in modo molto simpatico dice: I don't think it will work out in the end. Work out, l'abbiamo visto prima, to work out vuol dire anche funzionare, quindi un verbo molto, molto usato, molto complesso, questo phrasal verb, è qui divertentissimo. Requires too many collective actions, perché ha bisogno di azioni troppo collettive che devono quindi essere condivise. Too many sensible decisions, qui un altro false friend, non sono decisioni sensibili ma decisioni di buon senso. Sensibili sarebbe sensitive, quindi sensible con del buon senso, cioè delle decisioni intelligenti, e we're not good at making them. Se volete continuare a sentire questo podcast molto interessante, beh, lo trovate nei podcast del Guardian, Guardian Books Podcast. Per il nostro tempo radiofonico dobbiamo fermarci qui per questa puntata di English 24. Vi devo ricordare la nostra pagina di Facebook, l'appuntamento con English 24 in edicola. Ringraziare Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.